Lettere d'amore a Peter Rabbit, che uscirà nelle prossime settimane nella collana Manufatti Poetici, diretta da Sixty, Giovannetti e Zaffarano per Zacinto Edizioni. È un testo che si colloca nell'insieme dei miei libri un po' a parte, sia per la tematica che per la particolare struttura delle poesie stesse. Se volessi fare un raffronto con altri volumi che ho già pubblicato, accosterei le lettere a Parabellum. Allo stesso modo in cui in Parabellum c'è un tema centrale molto forte, molto circoscritto, che è quello della guerra, della rappresaglia, nelle lettere invece questo tema è l'amore. Il titolo, che potrebbe assumere dei connotati enigmatici oppure spiritosi a seconda del punto di vista che uno sceglie, è un titolo di per sé un po' ingannevole. Diverse persone mi hanno chiesto se si tratti di prosa o di poesia, caricando la parola lettere di un significato troppo stretto, troppo letterale, direi. In realtà la scelta di intitolare il libro Lettere d'amore a Peter Rabbit, non poesie d'amore a Peter Rabbit o sonetti d'amore a Peter Rabbit, magari riecheggiando i sonetti d'amore a King Kong di Gino Scartachiande, la scelta di questa parola lettere è perché quando penso a una lettera penso che ci sia sempre un mittente e un destinatario ben definiti. Spesso chi scrive è il mittente, più o meno consapevole di un messaggio che pesca da qualche parte, ma non necessariamente chi scrive ha presente, quando compone un testo poetico, un destinatario. La scelta poi di svicolare, quindi di creare un apparente cortocircuito tra questa definizione e il personaggio a cui queste lettere dovrebbero essere indirizzate, Peter Rabbit, quindi un personaggio inesistente, è in parte legata al fatto di voler creare una confusione, una contraddizione, quindi di voler apparentemente negare quanto appena affermato e quindi indirizzare e spedire una lettera che non potrà essere recapitata perché magari Peter Rabbit non esiste. In realtà dietro a Peter Rabbit si nasconde una figura ben precisa che non viene rivelata, ma che è collegata al personaggio da un preciso codice. Ora, i podcast che verranno registrati avranno una struttura particolare. In realtà la prima bozza è già stata fatta. Adesso sto registrando il 2 gennaio, abbiamo cominciato a lavorare con un amico chitarrista verso la seconda metà di dicembre l'idea è quella di produrre delle registrazioni piuttosto brevi, contenenti un paio di testi poetici e un inizio e una fine legati alla canzone d'autore. L'autore che è stato scelto è Gian Maria Testa e anche in questo caso c'è un legame particolare tra questo libro e la scelta che è stata fatta. Quando incontrai molti anni fa, prima della sua prematura scomparsa, Gian Maria Testa, dopo un concerto a Sanremo, ci eravamo sentiti via lettera e ci eravamo parlati qualche volta al telefono, poi avevamo deciso di incontrarci per scambiare alcune opinioni su un tema che ci era molto caro, del rapporto tra la canzone d'autore e la scrittura poetica, un rapporto che è inutile che io stia qui adesso a dilungarmi nel cercare di riassumere in poche parole quanti cantautori hanno cercato o si sono legati al mondo della letteratura in senso più tradizionale e quanti altri invece dal versante della poesia o della letteratura hanno cercato di percorrere la via inversa, quindi collaborando con cantautori o cercando di avvicinare la performance poetica alla canzone o riportarla vicino a un ambito musicale in senso più ampio. Nel corso di quelle nostre chiacchierate ci eravamo confrontati su quale fosse il punto di partenza di una canzone, se il punto di partenza fosse il testo o la musica, e come le due cose proseguissero parallelamente l'una all'altra, e quale fosse invece il punto di partenza di un autore, di un poeta. E sembra sempre essere scontato, cioè il punto di partenza debba essere quello della parola scritta, quindi del testo, e che lì si riduca. In realtà, spesso per uno scrittore, specie diversi, la musica agisce in maniera più sotterranea. Qui non è uno spartito che viene composto accanto al testo, o che accompagna il testo, o che lo precede, o che lo segue, come nel caso del cantautore, ma è magari una struttura silenziosa, apparentemente silenziosa, che trova i propri strumenti da suonare all'interno della lingua stessa, ma che è una struttura che non di meno influenza la composizione del testo nel suo insieme. Ecco, le lettere d'amore a Peter Rabbit hanno una struttura musicale molto forte al loro interno, e non è soltanto legata a un certo rigore formale che le caratterizza, o all'utilizzo di assonanze, di rime e quant'altro all'interno diciamo, della forma poetica di ciascun testo. Nella chiacchierata con Gian Maria Testa emerse subito questa volontà di, diciamo, far convergere i due mondi anche all'interno di registrazioni o di performance live. Tant'è vero che spesso durante i concerti Testa era solito leggere, accompagnandosi con la chitarra, alcune poesie del proprio chitarrista, che a sua volta è un poeta, Pier Mario Giovannone. In questo caso la scelta di utilizzare dei frammenti di canzoni di Gian Maria Testa, più o meno correlate con i testi poetici tratti dal libro che vengono poi letti nel podcast, è legata a questa volontà di ribaltare un po' con la prospettiva. Non più il testo poetico ospitato in un ambito di concerto live, o all'interno di un contesto nel contesto della canzone d'autore, ma si cercherà di ribaltare, appunto, ospitando la canzone d'autore, frammenti di essa, all'interno di un contesto che sarà invece essenzialmente poetico.